guarda fine a casa. Ah, ma il foro. Ma quello non è la foglia lì. Ma la scuola gli ha la tua alzata. Ma la scuola non è la tua.